che la società italiana di oggi, come ha ricordato il Presidente della Repubblica nel discorso che ha dedicato giovedì scorso alla giornata della memoria, sia afflitta da una buona dose di razzismo, violenza e sopraffazione contro i diversi, non è tanto un oggetto di deprecazione quanto un dato di fatto. Doverosa quindi la sua ferma condanna di ogni gugito di antisemitismo. L'antisemitismo è una delle piaghe ideologiche del pianeta e un paese come il nostro, che non solo ha accettato senza neanche protestare troppo l'infamia delle leggi razziali, ma è geneticamente segnato dalla tradizione cattolica, che in materia non ha mai scherzato, non può permettersi di ignorarlo. I rigurgiti cui alluso Napolitano saranno forse meno evidenti delle spedizioni punitive contro i campi nomadi o del disprezzo diffuso verso gli immigrati, ma vanno lo stesso tenuti d'occhio. Il Presidente, come saprete, ha specificato che da ogni tentazione in quel senso ci si deve guardare anche quando l'antisemitismo si traveste da antisionismo. Qua siamo un po' più nel campo dell'opinabile, ma non c'è niente da obiettare, naturalmente, visto che la capacità di non lasciarsi ingannare dai travestimenti è una dote civica di sicura utilità. Ma è degno di nota, lo ammetterete, il fatto che di tutto il discorso quel passaggio sia stato quello, se non l'unico, che più ha suscitato lodi e consensi tra i commentatori. E il sistema dei media, che in Italia è impegnato a salvare l'eccezione in una difesa affatto acritica della politica dello Stato di Israele e dei suoi governi, si è mostrato ovviamente entusiasta dell'affermazione presidenziale per cui antisionismo significa negazione della fonte ispiratrice dello Stato ebraico, delle ragioni della sua nascita ieri e della sua sicurezza oggi, a prescindere dai governi che si alternano alla sua guida. L'identificazione tra gli oppositori di quella politica con i nemici di Israele tout court e quindi con i fautori di antisionismo visto come riproposizione dell'antisemitismo storico è sempre stato il pezzo forte di un certo establishment atlantico nazionale, diciamo così. E non è sembrato vero ai suoi rappresentanti di ritrovarla sforzandole un po' nelle parole della massima carica dello Stato. Fino a qualche anno fa vi confesso che tutto ciò mi avrebbe oltremodo irritato. Il sionismo, la dottrina per la quale l'unica speranza di salvezza del popolo ebraico consiste nel ritorno dei suoi figli in Palestina e nella fondazione lì di un proprio Stato sovrano, è in sé affatto rispettabile. Ma questo non vuol dire che lo siano ipso facto tutte le sue applicazioni. E non è neanche vero, come sostenevano i suoi fautori, i suoi fondatori, che esso esaurisca in sé le ipotesi di superamento di quella che allora, che un tempo si chiamava la questione ebraica. Nessuno vorrà negare, spero, la possibile alternativa dell'integrazione in una struttura laica capace di rispettare, oltre i diritti degli individui, quelli delle comunità. Come avviene nelle grandi democrazie occidentali, in Francia, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, dove non a caso vivono complessivamente più ebrei che in Israele. È difficile capire, in realtà, perché non si possa discutere sulle conseguenze e sulle implicazioni delle varie scelte senza dover sottostare alla spada di Damocle di un'accusa infamante come quella di antisemitismo. Chi ritiene che un certo atteggiamento israeliano sia una delle concause della crisi attuale in quella parte del mondo ha il pieno diritto di dirlo e il solo dovere di motivare le proprie argomentazioni. Rispondergli dandogli dell'antisionista e quindi dell'antisemita non è francamente accettabile. Tuttavia, come vi dicevo, oggi la questione mi sembra meno importante. Le cose si sono troppo aggrovigliate laggiù perché ci si possa accontentare delle verità tradizionali. E lo stesso sionismo, in fondo, appartiene più al passato che al presente o al futuro. È un tipico prodotto di un certo clima culturale utopico-democratico del tardo Ottocento e non si può proprio dire che nella realtà israeliana di oggi sopravviva un granché delle sue componenti utopistiche, solidaristiche di democrazia diretta. Il diritto di esistere di Israele non si fonda su quella ideologia né su altre, ma sui diritti universali dei popoli, comunque si siano costituiti, come a dire, su quell'accettazione dello stato di fatto di fronte alla quale l'ideologia e le dottrine devono inevitabilmente cedere il passo, come ammettono ormai anche gli interlocutori arabi. E quanto alla sicurezza, nessuno mi toglierà mai dalla testa l'idea che la si debba cercare più che in un sistema di equilibri armati tra due o più stati, che è un modello che storicamente non ha funzionato mai, in una forma o in un'altra di conciliazione. Una conciliazione che passi di necessità attraverso il superamento consensuale della situazione di oggi, con la costituzione presto tardi di una struttura comune in cui tutti gli abitanti dell'antica terra di Canaan potranno vivere in pace da quei bravi fratelli che sono, anche se ancora non gli è permesso di rendersene conto. Che è un'utopia, naturalmente, un ideale laico, la cui realizzazione temo personalmente non mi sarà mai dato da vedere. Ma su simili progetti conviene sempre confidare, nella consapevolezza che al di là delle loro apparenti implausibilità rappresentano l'unica prospettiva possibile. Alla fin fine la sola alternativa per chi li rifiuti è quella di rassegnarsi a una delle tante possibili forme con cui si traveste la sopraffazione.